24. La storia. Devo dire che sto bene, bene. Anche stamattina mi sono alzato, ho guardato il mondo e ho detto... Ansiolitico! Un antibiotico! È partito comico e è diventato filosofo. Sono irrecattabile, c'ho il dossier io! Ho fatto la carriera invertita di Buttiglione. Ma c'ha tutti la scorta, me la sento da solo! La più grande bestiaccia da palcoscenico. Il suo cognome è perfetto, grillo parlante. Vergogna! Lui non è sempre più arrabbiato, è l'Italia che fa sempre più schifo. È straordinaria! Ogni volta che parla di un'azienda, questa azienda fallisce. Bentornati a Mix 24. Proviamo oggi a tracciare un ritratto del guru del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Piero Grillo. Proprio lui, genovese, classe 1948. Un fustigatore dei costumi, un leader, un personaggio nato in televisione, alla fine un politico con un suo partito, il Movimento 5 Stelle, un partito nato da un blog e da un movimento che si è raccolto a partire dal 2005 attorno all'ex comico che si è riunito per la prima volta con il Vaffa Day, il 14 giugno del 2007. E allora partiamo proprio da un suo amico di vecchia data, il senatore a vita, l'architetto Renzo Piano. Io credo che il carattere più genovese di Beppe sia sostanzialmente la naturale avversione per lo spreco. Provate ad andare a Genova, all'uscita di qualsiasi locale pubblico, sentirete sempre dire: Giuan, mi hai dato 2000 lire alla guardarobiera, stai zitta, non farti sentire. Ma Giuan, 2000 lire la guarda rovina, stai zitto, non hai visto che cappotto che mi ha dato. Ecco. Una volta progettammo con lui un museo della spazzatura, un museo dei rifiuti. Era una bella idea, ed era sua l'idea, in fondo, di fare uno spaccato della società cominciando dai rifiuti della società. Perdi qua. Ma è così anche in casa. Lui fa impazzire quella santa donna di sua moglie, insomma, con i rifiuti, con la lavatrice, con i detergenti. Me lo fa un autografo? Ne faccio anche quello di San Pietro, che ho la delega. Grazie. Le battute che abbiamo sentito venivano da Cercasi Gesù del 1982, uno dei pochi film in cui Grillo ha partecipato come attore. Così racconta Michele Serra, editorialista, scrittore, ma soprattutto sceneggiatore di molti dei monologhi di Grillo. C'è anche un aspetto di neurolabilità in Grillo, di nevrastenia vorrei quasi dire, di nevrastenia comica che è comicissimo. Ha fatto un percorso che lo ha portato a non essere più schiavo delle battute, cioè io vado a vedere un suo spettacolo per due ore, rido, e però mi dà anche una serie di informazioni che io altrimenti non potrei mai conoscere in altro modo. Così Maurizio Crozza, amico di Beppe Grillo. Già nel 2004 i contenuti dei monologhi del grande comico genovese virano verso i temi della comunicazione mediatica. Il filo della comunicazione, quello che ci arriva in casa, che ci porta attraverso il telefono e attraverso la televisione, mille canali. Se tu lasci aperta la porta della tua famiglia a mille canali, ti devastano la famiglia. Abbiamo bisogno di un pochino di difese. Ma perché devo dirvele io queste cose? E ancora il senatore Piano. Questo rifiuto della modernità, in fondo, ha questa chiave. Nel senso di non cascare nelle trappole, insomma, ecco, rifiutare di credere troppo facilmente a tutto. Però sostanzialmente ha una diffidenza nei confronti della modernità, perché devo dire che spesso la modernità ci ha fregato. Non ce la faccio più, qui sono tutti pazzi, mi faccia parlare con uno che beve acqua normale e non uccida dei pappagalli. Un amico un po' ingombrante, come racconta in un'intervista lo scrittore Stefano Benni, che lo conosce da 30 anni e ha collaborato con lui in molti spettacoli. L'ho visto fare delle rapine, cioè degli spettacoli rapinosi in cui pigliava dei grandi soldi, e fare delle grandi rinunce, dire di no moltissime volte. Quindi a me questo basta per dire che è un comico che ha una certa lealtà. Berlusconi dov'è? Non c'è, deve essere andato a scuola di R. Moshe, perché c'è il complesso di Agnelli, Berlusconi. Agli artisti concedo ciò che ai politici non concederei mai, cioè un politico che facesse un programma di governo identico alle cose che dice Grillo in teatro non lo voterei mai. Questo è il giudizio lapidario di Michele Serra. Ma l'avventura di Grillo in politica forse nasce da molto lontano, da quando per gioco, in un'esibizione alla Festa dell'Unità del 1988, dice: io non mi sono candidato a queste elezioni, le prossime ci vado. Non ci vado, voglio l'immunità parlamentare.

La seconda iniziativa, sempre con i soldi raccolti attraverso il blog, è stata quella dell'acquisto di una pagina dell'Herald Tribune con l'elenco dei parlamentari che sono stati condannati in via definitiva. Grillo oggi è 12° nel mondo come blog, considerando che i blog nel mondo sono 23 milioni. Beppe Grillo oggi ha varcato il portone di Palazzo Chigi per portare al Presidente del Consiglio una lettera con molte firme che sono state raccolte con il suo blog, che chiede appunto al Premier e ai suoi ministri di realizzare gli impegni che sono stati presi durante la campagna elettorale. I politici sono i nostri dipendenti, noi siamo i loro datori di lavoro. La democrazia diretta, in una parola, è che una persona non delega più il politico, ma controlla l'operato di un dipendente, come dice Grillo, che ha sicuramente una carica pubblica importante, ma che è tenuto a rispettare il mandato in termini di progetto, in termini di proposte, non in termini politici generalisti. Io sono qua per chiedervi la pace nel mondo. Voglio il grano per i bambini e voglio essere tranquillo. Tutti vogliamo stare tranquilli, perché se non date la pace, non la fate voi la pace, io vi ammazzo tutti. Beppe, la battuta per il finale. Che battuta vuoi che fare? Come è andato l'incasso? Pippo Baudo, lei ha scoperto Beppe Grillo. Se lo aspettava che sarebbe diventato un leader politico? Ah, mai e poi mai. Infatti la più grande sorpresa è questa. Ogni volta quando lo vedo che anima i dibattiti politici, parla di politica, mi meraviglio. Mi sembra una specie di miracolo. Miracolo perché non aveva, secondo lei... No, perché non avesse la stoffa per fare il nuovo politico. Abbiamo visto di peggio recentemente. Però, devo dire, lui era un comico, è nato per fare lo spettacolo. Cioè, non pensavo che avesse abbandonato il palcoscenico per diventare un personaggio politico a tutto tondo, insomma. Ma lei preferisce il Grillo comico o politico? Ah no, io preferisco quello comico. Senza alcun dubbio. Senza alcun dubbio, anche perché gli ultimi atteggiamenti tenuti, peraltro, mi hanno confermato nell'idea che, insomma, non ci si improvvisa. La politica dovrebbe essere una cosa seria, anche se tu hai un grande consenso, che è un consenso immediato, fatto di popolarità, fatto con mezzi diversi dal ragionamento politico, poi vai a crollare nel momento decisivo, ecco. Ma tornando a quando lei l'ha scoperto, si è accorto subito del suo talento? No, è un talento di trasporto, di empatia nei confronti del pubblico, questo l'ha mantenuto. Infatti quando si affaccia nelle piazze, parla con la gente, li fa sorridere, eccetera. Certo, quando affronta poi i problemi politici veri, quelli lancinanti sulla pelle del popolo italiano, e lì qualche confusione la fa. Ma quando Grillo attaccò Craxi, che l'abbiamo raccontato, lei era d'accordo? No, io non ero d'accordo, perché noi non provavamo mai i suoi interventi. Lei non lo sapeva, quindi? No, io in genere sapevo i cannovacci, eccetera, però questa battuta sui viaggi di Craxi in Cina e sul numero dei partecipanti come parenti non l'avevo saputo. Insomma, l'ha improvvisata lì e ovviamente è nato un macello nel quale io poi sono stato la vittima, non lui. Perché lei la vittima? Ma perché lui l'anno dopo poi è tornato a fare Sanremo, non è vero che sia stato cacciato via dalla Rai. Assolutamente, io invece sono stato ampiamente rimproverato perché ritenuto responsabile oggettivamente, e la famosa responsabilità oggettiva come capo dello spettacolo, di quanto avesse detto Grillo, ecco. Oggi che consiglio darebbe a Grillo dopo queste elezioni? Ma io penso che sia un consiglio difficile, ci vuole anche coraggio. Cioè, io se fossi lui direi, noi abbiamo fatto questo movimento, adesso devo dire è stato battuto, ma poi mica tanto, che poi 17 deputati li ha portati al Parlamento europeo, quindi sempre una forza consistente ce l'ha. Poi ha tentato questo abboccamento con questo leader un po' nazifascista, un po' strano, inglese, e questo fatto gli viene rimproverato aspramente da molti dei suoi. A questo punto sta un po' navigando nell'aria, perché non sa che cosa fare. Poi la sua soggezione nei confronti di Casaleggio mi pare che sia molto forte. In fondo non ci sarebbe niente di male se dicesse: io ci ho provato, poi da fare un movimento il pubblico non mi ha capito, non avete votato come speravo mi votaste, quindi torno al mio lavoro usato. Ma lei da cosa la vede questa soggezione a Casaleggio? Ma la vedo perché in fondo lui, quando deve affrontare gli argomenti seri, l'impostazione si rivolge a lui, quello che detta poi l'atteggiamento del movimento è Casaleggio. Casaleggio è lo stratega nascosto e il Machiavelli della situazione, insomma, nei confronti del principe. Ma lei lo sente Grillo? È capitato di incontrarlo? No, l'ho incontrato qualche tempo fa in uno spettacolo fatto da Gino Paoli per gli annunciati della sua città, e devo dire che è stato un incontro molto piacevole, molto affettuoso. Lui si è messo a cantare, insomma, non ha fatto politica. No, è stato un incontro, perché poi io sinceramente gli voglio bene, insomma, io sono legato affettivamente a lui, anche perché la nostra è stata un'esperienza di lavoro molto bella, ma soprattutto molto divertente. Insomma, il consiglio è: torna a fare il comico? Ma io, il mio consiglio, torna a fare il comico, cioè se lui vede di non trovare una soluzione autonoma e una linea di, diciamo, di gestione del suo movimento all'interno del Parlamento europeo, non c'è niente di male se uno dice: signore, io ci ho provato, purtroppo non trovo il consenso da parte dei miei, perché poi da quello che leggo sui giornali mi pare che molti 5 Stelle li sentono, sì, dalla testa usato da lui. Quindi indubbiamente poi un'assemblea deve fare questa scusa di ricorrere alla rete. A me fanno ridere quando dicono: il popolo sovrano ha votato. Il popolo sovrano sono 100.000 voti per loro, ma noi siamo 59 milioni 900 mila ancora gli altri, e questa sovranità non può essere accreditata a 100.000 persone rispetto a 59 milioni e 900 mila. Certo. È una rete alla quale loro affidano una importanza decisiva e democratica, soprattutto nella gestione della cosa pubblica, e sinceramente questo dissento, perché la democrazia è fatta di numeri, e i numeri, perché tu abbia di governare, devono essere grandi. Grazie. Prego.